E ben ritrovati ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre Jean-Luc. Ritornano le interviste, questa volta è il turno di una formazione trevigiana che ci viene a presentare il suo nuovo disco. Agli ospiti, come sempre, le presentazioni. Ciao a tutti, noi siamo gli Amantide, io sono Nicky alla voce, Andrea al basso e Scream. E con gli Amantide una prima parte in cui ascolteremo alcune formazioni storiche della New Wave of British Heavy Metal di fine 70 e inizio 80. Il primo brano sentito era No Class dei Motorhead dal disco Overkill del 1978. Storico trio guidato dall'inossidabile Lemmy, che continua imperterrito a mietere successi in tutto il mondo grazie ai loro stratosferici concerti. Qual è secondo voi il segreto della loro longevità artistica? Vuoi parlare tu? Sicuramente è un gruppo che ha fatto la storia. Mi sembra che siano attivi. Sono sincero, non li conosco molto bene. Ma insomma. Comunque è un gruppo che dagli anni 70, mi sembra, no? Certo. Certo. Secondo me, a parte che secondo me sono anche famosi per Lemmy, che è un personaggio assolutamente storico. Comunque, questo. Sì, mi sento un po'. Scusiamoci. Mi sento preso in contropiede perché, appunto, non li conosco benissimo anch'io, anche se ovviamente ci sono alcuni brani che fanno proprio parte della storia della musica, quindi ogni musicista prima o poi si ritrova ad ascoltarli. Comunque, sicuramente, oltre che al grande impatto musicale, come diceva Andrea prima, c'è anche molto, molto del personaggio di Lemmy, molto controverso, che ha aiutato moltissimo, insomma, a costruire la fama di questa band. Gli Amantide sono attivi dal 2006. Come vi siete formati e perché questo nome? Allora, noi ci siamo formati dall'unione di due band, praticamente. Io e il nostro vecchio batterista e il vecchio chitarrista suonavamo già insieme in una band hard rock da qualche anno. E l'idea è nata da Andrea, che invece cantava e suonava il basso in una band death metal. E quando ha sentito, insomma, il nostro gruppo, ci ha proposto un po' di provare a fare qualcosa di diverso, qualcosa di un po' più metal, di un po' più moderno. Ci ha proposto qualche band che poteva influenzarci e così abbiamo deciso di formare gli Amantide, ispirandoci a gruppi come gli Exilia o gli In Flames, Catatonia, Flowing Tears. Proseguiamo il nostro viaggio musicale con Judas Priest, la storica band di Rob Halford e Graham Tipton, dal disco British Steel del 1980, con Grinder. Bend the time. nomi giganteschi del metal, tra reunion e tour di addio, hanno cambiato per sempre l'immagine e la sonorità della musica rock dura, diventando nel tempo un gruppo influentissimo grazie alla loro sonorità tagliente. Che ne pensate? Ma penso che band come i Judas hanno avuto la fortuna e anche l'innegabile talento di nascere in un periodo in cui appunto era la musica metal era tutta da inventare. E quindi ovviamente contestualizzando la loro proposta musicale negli anni 80, in cui si veniva fuori insomma da non è che ci fosse un genere musicale così grintoso, così forte, così potente, certo. Ovviamente hanno raggiunto un grande successo appunto perché hanno avuto il coraggio di essere innovativi per l'epoca. Personalmente adesso li ritengo un po' superati. Mi limito a dire che li ritengo un po' superati. Però comunque sicuramente possono permettersi di vivere di rendita per quello che hanno dato insomma alla musica metal mondiale. Vostre performance come sono andate e quali le impressioni del pubblico a fine concerto? Ma finora in 6 anni di concerti sono andate bene, alcune meno bene, ovviamente in base anche un po' alla situazione, molte sono andate molto bene. L'ultima bella sorpresa che abbiamo avuto è stata la release party di Mädchen a gennaio, che abbiamo fatto a Treviso al New Age, e la risposta del pubblico è stata fantastica, è stata veramente una bellissima festa. Questa prima parte finisce con gli White Spirit, band inglese durata un solo disco, è stata la scuola musicale di musicisti come Yannick Gers, attuale Iron Maiden, e Brian Howe, cantante poi finito nei Bad Company e nei Foreigner, dal loro omonimo debut album del 1980, il brano Don't Be Fooled.